sotto nei saloni per le strane dimensioni. Si credeva l'uomo più elegante, più galante nel suo dir, sempre tutto quanto incomatato, ricercato nel vestir. E portava un abito a quadretti, i baffetti di Charlot. Era alto così, era grosso così, lo chiamavano Bombolo. Si provò di ballar, cominciò a traballar, fece un coppitombolo. Ruzzolò di qua, rimbalzò di là, come fa una palla. C'era destino la palla di un canal, ma rimase a galla. Dei suoi piccoli piedi, il suo grande gilet, lo chiamavano Bombolo. E pensavano, ahimè, chissà mai cosa c'è sotto quel gilet. Poi ne combinò da sbalordire, quando volle dimagrire. Un dottore gli ordinò per cura, acqua pura, niente più. Lui per far la cura più intensiva, ne inghiottiva tutto il dì. E così nel mentre si curava, si gonfiava sempre più. Era alto così, era grosso così, lo chiamavano Bombolo. Si provò di ballar, cominciò a traballar, fece un capitombolo. Ruzzolò di qua, rimbalzò di là, come fa una palla. Perde il fatal, cadde in un canal, ma rimase a calla. E i suoi piccoli piedi, il suo grande gilet, lo chiamavano Bombolo. E pensavano, ahimè, chissà mai cosa c'è sotto quel gilet. Era alto così, era grosso così, lo chiamavano Bombolo. Bel dì però, il perché non so, guadagnò un milione. Tanto si gonfiò e si emozionò che scoppiò il pallone. La questura indagò quando in pezzi trovò l'elegante Bombolo. Dopo un lungo sermon dichiarò in conclusione, ma mossò il milione.